Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Silvia Vallone era diventata subito famosa con il suo primo romanzo, Acciaio, che addirittura era arrivato al secondo posto al Premio Strega 2010, a soli 4 voti di distanza dal vincitore. Da quel libro, tra l'altro, era stato tratto anche un film. Questa trasmissione, Il cacciatore di libri, era stata la prima trasmissione radiofonica ad ospitarla e quindi abbiamo, diciamo, un legame particolare con questa autrice, l'abbiamo un po' tenuta a battesimo. Ora è in libreria il suo terzo romanzo, Da dove la vita è perfetta, pubblicato da Rizzoli. È un romanzo nel quale l'autrice riflette e fa riflettere sulle tante forme di maternità e di paternità, sul senso della genitorialità, ma è anche un romanzo che parla di desiderio, non solo di desiderio di essere madre, ma anche di desiderio magari di liberarsi del proprio contesto sociale, di liberarsi della periferia intesa come luogo del nulla. Il romanzo è ambientato a Bologna, che è la città di adozione di Silvia Vallone. Si seguono due storie parallele. Da una parte c'è Adele, 17 anni, che vive in una periferia piena di contraddizioni. Rimane incinta, è giovanissima, il suo fidanzato Manuel non ne vuole sapere, quindi lei decide di dare via il bambino. Tra l'altro il fidanzato fa il piccolo spacciatore, è finito in un riformatorio. C'è poi accanto a lei l'amico Zeno, che è diverso dagli altri ragazzi della periferia, perché è uno che legge Dostoevsky e si prende cura della madre invalida. Dall'altra parte seguiamo parallelamente la storia di Dora e Fabio, che non possono avere figli e avviano quindi, diciamo, una complicata trafila per l'adozione. Ed è proprio in questo percorso che Dora capisce che non è necessario aver partorito per essere madre. Il primo capitolo di questo romanzo, Da dove la vita è perfetta, è veramente un capitolo forte d'impatto, è proprio la scena del parto della giovane Adele, l'aspetto fisico, e c'è anche, come dire, la separazione fisica fra il neonato e il corpo della madre. Ma sentiamo perché Silvia Vallone ha deciso di affrontare con questo romanzo il tema della maternità. In realtà era da molti anni che volevo parlare di cos'è un genitore, come si diventa genitore, cos'è una famiglia. Ho sempre raccontato di figli e quindi volevo in qualche modo sondare l'altra parte della barricata, no? Che prospettiva cambia. È solo che in effetti non ci sono mai riuscita. Ho passato davvero anni a cominciare a buttare via incipit. Avevo troppo da dire ma non riuscivo a dirlo. E poi ho avuto bisogno del pungolo della vita, della realtà, cioè la nascita di mia figlia, che sotto questo aspetto ha portato la domanda all'ennesima potenza. E quindi sono partita dalla scena di un parto che viene sempre spesso raccontato in maniera molto edulcorata, no? Invece è un grande trauma, un trauma per il corpo, è uno spartiacque dove davvero muore qualcuno perché qualcuno nasca, c'è una parte di noi che muore. E volevo anche che questo parto fosse, come dire, uno schianto verso il futuro, e quindi sono partita da qui, anche se poi in realtà non è il parto ovviamente che rende genitore, infatti c'è tutta l'altra parte del libro che racconta l'attesa di un figlio che non è fisica. Infatti ci sono due storie parallele, quella di Adele, 17 anni appunto, che rimane incinta e ha un bambino, e quella di Dora, che invece non riesce ad avere figli. Anche questo è un tema di grandissima attualità, di donne, di coppie che non riescono ad avere figli e che si sottopongono a innumerevoli, diciamo, pratiche pur di avere un figlio. Ecco, nel personaggio di Dora tu hai messo tutta la disperazione che c'è in quelle donne, in quelle coppie, anche l'essere disponibili a far tutto. Beh, questo è un grande tabù ancora, no? Parlare di infertilità, perché è un territorio molto delicato, forse tocca appunto le corde più intime di una persona, il volere figli e non poterne avere, anche il non volerli e poter dire io non desidero figli e sono una persona tutto tondo ugualmente. Cioè, andiamo a toccare con questi argomenti zone molto intime, è anche per questo che secondo me il Fertility Day famoso del settembre scorso ha fatto infuriare, perché non bisogna trovare le parole giuste per inoltrarsi in questi desideri che sono, in quanto sentimenti e desideri, non giudicabili. Quindi ho voluto raccontare la pancia di questa coppia, in particolare di Dora, di questa donna, piena della violenza che un desiderio frustrato genera, e un desiderio come quello di maternità appunto tocca proprio le viscere in senso emotivo, ho voluto raccontare anche questa smania del possesso di un figlio che c'è sia nell'Adele che vive la gravidanza, sia in Dora che non la vive, fino poi a arrivare però alla soluzione opposta, alla liberazione, che è quando ti accorgi che un figlio non è tuo, un figlio è un'altra persona. E quindi a partire da questo Dora decide il cammino, anche qui poco raccontato, dell'adozione, quando capisce: ma mio figlio esiste già e non è mio, è una persona che mi sta aspettando. Tu prima hai detto che hai sempre raccontato i figli e adesso hai voluto raccontare i genitori. È anche vero però che anche in questo romanzo una delle due protagoniste ha 17 anni, quindi insomma è una ragazzina. Come mai sei così affezionata a quel periodo della vita, fin da, diciamo, da Acciaio e poi Marina Bellezza e adesso questo romanzo? Beh, a parte che essere figli rimane per tutta la vita, ahimè, quindi comunque è una condizione da cui non ci si libera mai, non ci si libera mai dagli errori dei genitori, che ci sono anche quelli sempre. E Adele, che è la mia ennesima protagonista adolescente, poi rischio anche di ripetermi, in realtà non voglio mai farlo, però ho un'ossessione per questo periodo della vita, proprio perché è un periodo di pura potenzialità. E quindi raccontare questa ragazzina, che è una ragazzina a differenza delle altre, molto ordinaria, no? Non è particolarmente bella, non è stata bocciata a scuola, non è neanche particolarmente così presa da ambizioni, anzi, cioè è una ragazzina che ha l'unica ambizione di tenersi il fidanzato, e per questo rimane incinta, ahimè, mezzi antichissimi che però tuttora ci sono. E questa ragazzina che non sa chi è, che non ha neanche deciso che talento ha, cosa le piace, ecco che rimane incinta. E quindi cos'è il genitore, diventare genitore, avere questo futuro, no? Siamo fatti di tempo, e questo tempo dell'adolescenza che si somma al tempo di un figlio che verrà, per me erano proprio la situazione che lacera il conflitto. Insieme all'adolescenza, altro tema tipico ormai dei tuoi romanzi è quello delle periferie, perché anche in questo caso vediamo Adele che vive in una periferia, nell'Ombricone, insomma questi palazzi appunto un po' abbandonati da tutti, e c'è il desiderio anche di scalata sociale, ma più che altro anche personale. Come mai anche in questo caso è un tema a te caro? Beh, perché per me la scrittura, come la lettura, è desiderio, e il desiderio nasce da mancanze, da fame. E quale luogo più affamato di un casermone popolare da cui ti affacci e vedi che laggiù a un certo punto c'è il centro pieno di persone che tu vedi felici da quella postazione. Poi naturalmente non c'è un luogo dove la vita è perfetta, però è bello raccontare questo desiderio. E anche questi casermoni dove non c'è privacy, la scrittura è invasione della vita degli altri, e mi è piaciuto infatti raccontare questi casermoni che combaciano, no, tra balconi e finestre, tutti si spiano, tutti sanno tutto di tutti, e si è arrabbiati, quindi sono casermoni, come dire, teatrali. A me piace la possibilità del litigio, i miei personaggi spaccano sempre qualcosa, perché mi piace che l'emozione vengano fuori, però mi piace anche il senso di comunità che c'è, difficile, non facile, non c'è un'utopia dietro questo, un'ideologia, però queste famiglie sgangherate che cercano di aiutarsi e di riscattarsi, sono anche qui, mi fanno molta simpatia da una parte, però dall'altra c'è gran bisogno di raccontarle, perché a parte Papa Francesco io non ho visto nessuno andare in periferia. L'incipit di questo romanzo è proprio la scena del parto, quindi qualcosa di fisico, una maternità vista attraverso il corpo. Come invece sei riuscita ad indagare la maternità vissuta senza il parto, quindi la mamma adottiva, e come invece vedi la paternità che non è fatta di corpo? Questa è una domanda molto complessa, nel senso che appunto io sono partita dalle storie degli altri, ho fatto molte interviste, ho conosciuto persone naturalmente che hanno adottato, che mi hanno raccontato, conosciuto coppie che hanno potuto raccontarmi appunto anche proprio la frustrazione che si sente nel rincorrere in questi test di gravidanza negativi, che no, sono veramente un dramma che tocca corde appunto, come abbiamo detto, molto delicate. Quindi da una parte c'è stata una grande indagine, dall'altra però c'è stata anche la mia esperienza che mi ha fatto capire appunto quanto la fisicità, la gravidanza, il parto, che sono esperienze sì stravolgenti, che hanno un significato, però nella misura in cui noi lo proiettiamo. Cioè la realtà dei corpi esiste per ricordarci che i nostri desideri hanno sempre un limite, non possono tutto. Nello stesso tempo però sono i significati che noi diamo e la capacità appunto di dire a tuo figlio: sei altro da me, il mio compito è che tu ti separi da me, anche se io ti amerò alla follia e davvero sono pronto a morire per te, che è una cosa che davvero scatta quando uno diventa genitore. La vita di tuo figlio vale più della tua in qualche modo, però questo senza nulla togliere al valore del corpo, non è il corpo che lo decreta. E questa era Silvia Avallone, ora in libreria con Da dove la vita è perfetta, pubblicato da Rizzoli. Breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. C'è un mix fra realtà e fantasia nell'ultimo romanzo di Alessandro Perissinotto, docente universitario torinese. Si intitola Quello che l'acqua nasconde, pubblicato da PM. Lo stesso mix era stato sperimentato da Perissinotto in Le colpe dei padri, che era arrivato secondo al premio Strega del 2013. In questo nuovo romanzo si racconta la storia inventata di un genetista, Edoardo Rubessi, che torna in Italia dopo anni negli Stati Uniti. Sua moglie Susan, con la collaborazione di un amico d'infanzia del marito, inizia a scoprire alcuni segreti della persona che le sta accanto da anni, e diciamo che questa è la parte noir del romanzo. Ma dicevamo prima che il libro parla anche di fatti veri e di persone realmente esistite. Allora c'è Villa Azzurra, la clinica psichiatrica infantile dove negli anni 60 e 70 venivano rinchiusi i bambini di ogni età, considerati ineducabili. Magari erano solo turbolenti, ma essere rinchiusi e sottoposti, diciamo, a torture in quella clinica gli aveva creato alla fine dei veri e propri problemi mentali. C'è il direttore di quella clinica, anche lui realmente esistito, Giorgio Coda, che praticava l'elettroshock. C'è Albertino Bonvicini, che era stato rinchiuso in quel manicomio e che poi si era dato alla lotta armata. Insomma, in questo romanzo, Quello che l'acqua nasconde, le cure psichiatriche prima della legge Basaglia e il terrorismo si intrecciano, così come si intrecciano realtà e personaggi di finzione. Sentiamo Perissinotto. In realtà i personaggi di fiction sono sostanzialmente tre, quattro se vogliamo. E sono Edoardo Rubessi, che è il protagonista, sua moglie e un amico di Edoardo. Ma passiamo all'altra parte, cioè alla parte di realtà, che è la più cospicua. Per capire cosa è realtà, il lettore può semplicemente leggere gli articoli di giornale che sono inseriti dentro il romanzo. Non c'è niente di inventato in quegli articoli, sono articoli d'epoca, quindi dagli anni 60 ai primi anni 80, e anche molti dei personaggi che compaiono nel romanzo compaiono nella loro essenza reale, quindi con il loro nome e cognome. Primo tra tutti Giorgio Coda, uno psichiatra che era noto per una variante dell'elettroshock, lui la chiamava elettromassaggio, ed era qualcosa che stava non certo nell'ambito della cura, ma a metà tra la punizione correttiva e il sadismo. Questo personaggio e il tema della cura, se così la vogliamo chiamare, la malattia psichiatrica, è uno dei temi di fondo del romanzo. Sei andato a scoperchiare, diciamo, uno forse che è stato anche degli scandali, insomma, dell'Italia di quel periodo, cioè quello che accadeva a Villa Azzurra, a Grugliasco, che era un manicomio, sì, lo possiamo definire così, dove erano rinchiusi i bambini, che venivano sottoposti, insomma, anche a trattamenti, diciamo, brutali. Perché hai voluto recuperare questo pezzo della memoria? Perché, come sempre, noi abbiamo un'idea della storia come il mantice di una fisarmonica e spesso vediamo il mantice chiuso, quindi una corta durata e poche nozioni. Poi quando apri il mantice della fisarmonica, nelle pieghe di questo mantice vedi un'infinità di sfumature, un'infinità di realtà. Dell'eredità degli anni 70, di cui avevo già parlato nelle colpe dei padri, rimaneva nascosto nelle pieghe del mantice per esempio tutto il tema della malattia mentale, e qui ci sono alcune storie che mi hanno raccontato, ma che io conoscevo per esperienza diretta, che sono storie nelle quali la lotta armata si fonde con l'esperienza psichiatrica. Una per tutte è quella di Albertino Bonvicini, a cui è stato dedicato un libro qualche anno fa che si intitolava Fate la storia senza di me. Albertino Bonvicini è un bambino che a 8 anni ingoia una biglia, viene portato in ospedale e dall'ospedale viene bollato come bambino ineducabile. Come bambino ineducabile finisce a Villa Azzurra, nel manicomio dove Giorgio Coda applica gli elettrodi in zona lombopubica per rieducare i bambini, e di lì lui riesce a dare a una assistente sociale il messaggio che lui è un bambino sanissimo. Albertino Bonvicini è il bambino che cambia in qualche misura la psichiatria italiana. 15 anni dopo ritroviamo Albertino Bonvicini in carcere, accusato di aver lanciato delle bombe nel bar L'Angelo Azzurro, bombe che causeranno la morte di un giovane, e di aver sparato a Giorgio Coda nel suo studio, perché Giorgio Coda viene condannato e poi il processo viene annullato per un vizio di forma, arrivano le squadre armate proletarie e gli sparano nelle braccia e nelle gambe. Perché sottolineo questo? Perché sembra che io abbia voluto unire due elementi, la malattia psichiatrica e il terrorismo, a soli fini narrativi, ma la realtà è opposta, cioè queste due essenze, la lotta ai manicomi e la lotta armata, stavano insieme, e stavano insieme perché un po' di terroristi erano stati messi in ospedale psichiatrico e perché la lotta all'istituzione totale nasceva anche dalle squadre armate, dalla clandestinità. Anche nel romanzo che hai citato prima, appunto Le colpe dei padri, avevi, diciamo, aperto, avevi acceso un faro su una parte, insomma, del nostro passato. Perché ultimamente ti piace nei tuoi romanzi creare questo mix fra storia reale e personaggi? Perché attraverso dei personaggi di fiction racconti la storia dell'Italia? Credo che sia a causa di un mio pudore personale, meglio, rispondo in due momenti. Perché raccontare la storia d'Italia? Proprio perché, tornando a quella metafora del mantice, mi sembra che troppe cose siano rimaste chiuse nel mantice e quindi, ad esempio, i miei studenti universitari non le conoscono. Perché raccontarle attraverso dei personaggi di finzione? Anche qui la risposta è duplice. Primo motivo, perché non ho il coraggio, per quel pudore di cui parlavo prima, di utilizzare dei personaggi veri come strumenti di narrazione. Quindi nel mio romanzo si trovano dei personaggi veri, presentati con il loro nome e cognome, ma quello che faccio dire loro, quello che faccio fare loro, è quello che realmente hanno fatto. Però sappiamo che un romanzo, al contrario di una biografia, ha bisogno anche di una storia trainante. E non ho il coraggio di affidare questa storia trainante a personaggi reali, cioè rispetto troppo la verità storica e anche il dolore di queste persone per prendere un personaggio reale e farne un personaggio di romanzo. Allora sulla storia con la S maiuscola, sulla cronaca, io innesto una fiction, innesto dei personaggi che spesso non sono di totale finzione, sono il risultato della composizione di personaggi reali, e cerco in questo romanzo in particolare di creare una tensione narrativa. In questo romanzo la tensione è tutta concentrata sul protagonista, su questo Edoardo Rubessi, che all'apparenza è solo un genetista di fama mondiale, dico solo perché questo è lo strato con cui si presenta. Vissuto negli Stati Uniti dopo aver abbandonato Torino nel 1980, ritorna a Torino nel 2015 e è convinto che il suo passato non sia più presente per nessuno, ma la realtà è ben diversa, il suo passato si ripresenta immediatamente e sua moglie Susan scopre che Edoardo ha diversi strati e ogni strato copre quello che sta più in profondità, come quei mobili che abbiamo riverniciato mille volte. Tutta la tensione narrativa starà nel fatto, io spero, che il lettore diventa un po' Susan, assume lo sguardo di Susan, assume dentro di sé l'angoscia di essere vicino a una persona che non sai più chi è. C'è un mistero, forse è un noir, credo di sì per certi versi, è un noir in cui il mistero da scoprire è chi è Edoardo Rubessi. Per scoprirlo dobbiamo attraversare un labirinto, e quel labirinto sono gli anni Ottanta, sono gli ospedali psichiatrici. Io stesso sono andato a Villa Azzurra, tra i ruderi di Villa Azzurra, a guardare, a fotografare i cavi elettrici abbandonati lì, i letti su cui venivano legati i malati. Villa Azzurra è una specie di casa delle streghe lasciata coi fantasmi dei bambini torturati. Questo è la componente di mistero. Vorrei che fosse un romanzo estremamente godibile e estremamente disturbante al tempo stesso. E questo era Alessandro Peressinotto, autore di Quello che l'acqua nasconde, pubblicato da PM. E ormai ci siamo, il prossimo fine settimana, da giovedì 18 a lunedì 22 a Torino, il Salone del Libro, edizione numero 30. Un'edizione molto attesa, visto che quest'anno per la prima volta c'è stata una manifestazione analoga a Milano circa un mese fa. Gli editori, insomma, lo sappiamo, si sono un po' divisi su questi due saloni. I grandi sono andati a Tempo di Libri a Milano, i piccoli e alcuni indipendenti a Torino. Tema di questa edizione del Salone di Torino, curata dallo scrittore Nicola Lagioia, è Oltre il confine. Diciamo, ci sono delle prove di dialogo mentre tornano le frontiere. C'è poi un focus sulle donne scrittrici e un altro sull'America al netto di Trump. Come sempre, tantissimi gli scrittori presenti, italiani e stranieri. Io in particolar modo vi segnalo e vi consiglio di andare sicuramente a vedere Daniel Pennac, c'è il Roberto Saviano, anche Luisa Sepulveda, una scrittrice che a me piace molto. Fossi in voi veramente non mi perderei l'occasione di andare a vedere un incontro con lei, la francese Annie Ernaux. C'è poi anche la spagnola Lisa Jiménez Bartlett, molto popolare da noi in Italia. Anche in questo caso c'è il Salone Off, quindi eventi al di fuori del Lingotto. Per tutti i dettagli vi rimando al sito salonelibro.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che se non avete preso nota dei titoli di cui abbiamo parlato, trovate sempre il podcast su radio24.it. Potete anche seguirmi su Facebook e su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.